Ma ritorniamo ora a Sangalak i Kaisar, il villaggio che raggiungemmo il giorno in cui incontrammo gli Yat. Colà ci sentimmo di nuovo collegati al resto del mondo, venendo a sapere dell'esistenza di un servizio regolare di pullman con le città del Turkestan afghano. Potevamo così sperare in una strada che non ci obbligasse continuamente a rallentare per superare i dossi costruiti sui canali di irrigazione. Al pari di tutte le macchine moderne, la nostra Ford non era tanto alta da permetterci di non strusciare su quelle sporgenze, pur affrontandole di traverso, come di dovere. A volte la copertura dei canali era sfondata, lasciava intravedere l'intelaiatura dei rami e in tal caso le difficoltà si aggravavano. L'acqua straripando trasformava infatti la pista in un pantano dove le gomme slittavano, senza posa. Proprio su questa strada Cristina cercò di insegnarmi l'uso della cosiddetta doppietta. Ero impaziente di imparare per non costringerla a guidare più del dovuto, ma vedendo la mia compagna soffrire ogni qualvolta mi apprestavo a superare un dosso, facevo immancabilmente stridere le marce, o tenevo troppo basso il motore, oppure raschiavo la coppa dell'olio. Infatti, l'ansia di non esasperarla mi rendeva così tesa da essere destinata, malgrado i miei sforzi, alla sconfitta. In quei momenti ero presa da una sorta di inquietudine, temendo di scoprire che la sua calma abituale celasse un carattere facilmente irritabile. Per fortuna, Maimanah, meta della nostra tappa, era vicina. Ancora un'ora di strada e poi avremmo potuto riposarci. Così almeno ci aveva detto il sindaco di Sangalak i Kaisar, un uomo atletico che indossava pantaloni da cavallerizzo e aveva occhi chiari, segno che forse scorreva sangue russo nelle sue vene. Egli ci aveva cortesemente invitate a pranzare con lui e la sua famiglia. Ben presto ci eravamo trovate sedute su un tappeto, all'ombra di un gelso, attorniate da incantevoli persone. Ci vennero mostrati i vecchi giornali di moda per sapere il nostro parere sull'argomento e dopo alcuni tentennamenti qualcuno andò a prendere una pezza di raso blu chiedendoci di tagliare un vestito per la piccola di casa. A gesti e indicando i pantaloni che indossavamo, cercammo di spiegare la nostra inesperienza in fatto di confezione di abiti. All'occorrenza mi sarei volentieri cimentata con un tessuto mio, ma non volevo rovinarne uno altrui. Dolendomi della mia inettitudine a tal riguardo, risolsi il problema offrendo alla nostra ospite il mio vestito di lino, già parecchio usato, che avrebbe potuto servirle da modello. Venendo a sapere che Cristina era sposata da molti anni, il sindaco le aveva chiesto dove si trovavano i suoi figli e a sentire che non ne aveva si era lasciato sfuggire. Ma che cosa avete fatto allora in tutto questo tempo? Prima che la mia compagna avesse pensato una qualche risposta, la moglie, notando la sua magrezza, aveva soggiunto: Beh, occorrerà che mangi molto riso se vuole metterne al mondo. La scenetta aveva rotto il ghiaccio, espressione perlomeno stravagante in questo torrido paese, permettendoci così di gioire appieno di quella gradevole compagnia. La padrona di casa, tutta vestita di bianco, mi ricordava una mia zia italiana, ugualmente piccola, florida e con i capelli neri. Sua figlia, Zara, gonna rosa, blusa e velo bianchi, dondolava un neonato biondo in una culla di vimini appesa a un ramo. Alta, vigorosa, con un viso fiero appena addolcito dal velo bianco, una giovane donna, la nuora probabilmente, si occupava di un bambino dalla pelle ambrata. Quando la nostra ospite ci fece notare che era molto nero, caratteristica poco pregevole secondo l'ideale asiatico, sentimmo una punta di disprezzo nella sua voce fino ad allora piacevole. Dopo aver diviso con loro un pasto sontuoso, un immenso piatto di riso con agnello, seguito da numerosi contorni di verdura, eravamo state colte da una certa sonnolenza. Tra il sonno e la veglia, intravidi sullo sfondo due figure femminili con gli occhi da mongole, una vecchia e una ragazzina, che mi fecero fantasticare dello Xinjiang. Forse erano kirghise. Anche se il viso pieno e dolce della giovinetta, che si chiamava Hamitah, poteva magari essere cinese. La sua lunga veste stampata a fiori ricordava i fluttuanti kalat tipici degli abitanti di Samarcanda. La sua piccola testa reggeva, senza farlo scivolare, il manto di tessuto bianco che le scendeva sulla schiena sino ai piedi. In realtà erano turcomanne e facevano parte del gruppo dei servi. Il mio sguardo ritornò più volte su quelle donne, spaziando ancora oltre verso l'immensa regione asiatica che i loro volti enigmatici evocavano. Lungo la strada per Maimana affrontammo un argomento di cui non avevamo mai discusso e in parte oscuro per noi. Mi ero accorta che Cristina aveva più volte osservato il bel viso interessante della giovane nuora e ora la mia compagna mi chiedeva se consideravo una perversione provare turbamento dinanzi al fascino di una donna. Non dovevo rispondere affrettatamente. La domanda aveva radici profonde nelle scelte che avevano condizionato la vita di Cristina. Non sarebbe stato sufficiente rassicurarla dicendole che la ritenevo la persona più retta e leale che avessi mai incontrato. Tuttavia, il mio campo di esperienza era diverso dal suo e mi riusciva difficile analizzare i meccanismi delle sue reazioni. Parlammo a lungo, interrogandoci reciprocamente, fino ad arrivare a conclusioni che vorrei riferire, giudicandole e di un qualche interesse. Per chi si identifica completamente con il proprio corpo, sarebbe increscioso sentire attrazione per persone del suo stesso sesso. Essendo ignorate talune leggi fisiologiche, ne deriverebbe come prima conseguenza una grave frustrazione, ben presto seguita sul piano mentale da disequilibrio e da una certa morbosità. Per contro, il problema assume ben minor peso per quelle rare creature di qualità eccezionale che si identificano con la propria facoltà intellettiva, sapendo che soltanto il pensiero esiste, poiché senza di esso non vi sarebbe né corpo né mondo oggettivo. L'essere mentale non ha sesso, o meglio, comprende ambedue i sessi in modo alternativo e simultaneo. Il corpo può a volte esigere di non essere dimenticato, ma condizionato dalla mente, di cui non è che uno strumento momentaneo, non ha il potere di disequilibrare un essere pensante. Per queste persone straordinarie non è grave discostarsi dalle leggi di natura, è infatti possibile affermare che esse le hanno oltrepassate. La difficoltà esiste per coloro che oscillano fra le due identificazioni. In tal caso, la libertà di cui gode l'essere mentale viene continuamente rimessa in questione, come sfidata dalle leggi di natura che reclamano la supremazia non appena si dà priorità al corpo. Di conseguenza, nessuno dei due piani può prendere reale coscienza di sé, non vi è modo di raggiungere un accordo armonico né di assumere un comportamento costante che conduca all'unità e alla pace interiore. Involontariamente, senza saperlo, queste persone cercano di seguire al contempo le due diverse e parimenti imperiose istanze, natura e mente, sessualità differenziata ed ermafroditismo. Ed esse soffrono di essere tanto dilaniate. Forse era ciò che capitava a Cristina. Ci occorsero 2 ore piene per raggiungere Maimana, mentre il sindaco di Sangalaki Kaisar impiegava soltanto 30 minuti. Egli guidava però in maniera spericolata e più di una volta aveva avuto incidenti gravi. Era piuttosto tardi. I charpai, sorta di giacigli o letti montati su 4 piedi e con una rete costituita da corde tese, erano già stati portati sulle vie per dormire. In attesa di un'ipotetica frescura notturna, alcuni uomini vi erano seduti sopra servendosi dalle tabacchiere di un'ultima presa di tabacco in polvere per metterlo, secondo il costume del paese, sotto la lingua. Mescolato alla calce, esso brucia più del pepe rosso e quasi paralizza la lingua. Un uomo che ne aveva appena fatto uso e a cui chiedemmo un'informazione, ci rispose con una voce impastata simile a quella degli artisti del circo quando imitano l'accento inglese. Indicando una casa sormontata da un'antenna radio, egli ci spiegò che non si trattava di una Mehman Khana, ma di una Roshen Konsulati. Dopo aver spostato il suo letto per lasciar passare la Ford, ci accompagnò alla locanda per viaggiatori, un piccolo edificio al centro della città addormentata. Il custode, che aveva lunghi baffi spioventi, alla moda dei guerrieri mongoli, ci illuminava il cammino con una lampada a pressione che si sgonfiava continuamente, forse per protesta contro la poca cura con cui veniva trattata. A Maimana molti prodotti portavano un timbro russo o Russen: fiammiferi, caramelle, sigarette, teiere, zucchero, bidoni di benzina accatastati in casse chiamate shellac. Un ragazzo dall'aria sveglia, allievo della scuola tedesca di Kabul, fu il nostro interprete presso il sindaco della città. Un uomo barbuto, dal ventre prominente, che sbadigliando ascoltò le nostre domande sulle condizioni della strada davanti a noi. Ci informò di probabili difficoltà a causa delle dune sabbiose. In tal caso, però, abitualmente si telefonava a un certo numero e qualcuno veniva in aiuto dei camion insabbiati. Come nella smorta zona intorno Pechino, quando si scatena l'uragano di polvere gialla proveniente dal deserto del Gobi, la terra e il cielo di quel luogo sono saturi di luce. Senza possibilità di dubbio stavamo attraversando il paese degli agnellini Karakul. Vedevamo infatti pecore che pascolavano su colline di sabbia e soprattutto grandi mucchi di pelli ancora rigide per la pasta di farina mista sale adoperata per conciarle. In un deposito nei pressi di Andkui ce ne furono mostrati di diverso tipo: il nero, vellutato e lucente Nazuksha, appena ondulato, piccola pelle a quattro angoli di un animale di appena 8 giorni del valore di circa 3 sterline, il Taker o Breischwanz, raro e leggero come seta amarezzata, l'Astrakhan, nero e ricciuto, che sfumava ai lati in un colore brunito, o quello grigio con freddi riflessi blu dove più si infittivano i boccoli. La storia delle pecore gravide a cui si taglia il ventre per utilizzare la pelle dei piccoli non ancora nati è vera soltanto in parte. Tale pratica viene usata se la madre si spezza una zampa, si ammala o vi è pericolo di aborto. L'invio annuale di pelli a Londra e a New York fruttava 2,5 milioni di sterline, circa la metà dei proventi globali delle esportazioni afghane. Ero ansiosa di toccare e ammirare quelle pellicce, là nel loro luogo di origine, poiché esse mi ricordavano l'infanzia. Capitava talvolta, quando mio padre aveva confezionato un mantello di Breischwanz per una straniera, che dovessi partire per Parigi per consegnarlo subito. A quell'epoca avevo voluto imparare il mestiere paterno, ma al contempo sentivo la necessità di evadere dall'ambiente cittadino troppo artificioso per i miei gusti. Speravo di andare in Canada o in Asia ad acquistare per suo conto i mazzi di pelle grezze. Ora mi trovavo proprio là. Osservavo come si preparavano le balle di pellicce, le pelli, dopo essere state ammucchiate una sopra l'altra come carte da gioco, erano avvolte da un grande telo di cuoio bianco che veniva chiuso per mezzo di una cucitura. Gli agnelli coda larga sono sorprendenti quando li si vede trotterellare con la loro appendice caudale che dondola greve, simile a una sorta di grande cuscino lievemente rialzato all'estremità. Un turcomanno, aprendo le braccia, ne fermò un paio per darmi agio di esaminarli. Ero curiosa di sapere se quanto riportato dai racconti di Marco Polo corrispondesse a verità, che cioè ad alcune di quelle pecore particolarmente dotate viene attaccato un carrettino a due ruote atto a sorreggerne la coda. Devo dire però che a tutt'oggi non posso confermare il fatto. Ad Andkui, città poco distante dalla desertica frontiera russa, tutto era grigio, stinto e come asfissiato dal calore. La terra, le case cubiche, i cammelli. Il bazar offriva il riposo della sua ombra, quasi in contrasto con quel clima torrido. Benché ci fosse gente nelle botteghe, il commercio era poco animato. Mercanteggiammo con un orafo che si rifiutava di accettare il prezzo da noi offertogli per la tradizionale collana d'argento delle spose, composta di grandi sfere ornate di due sobrie linee perlate, il cui valore veniva valutato a peso su una bilancia cinese. Come di consueto, mi dedicai alla mia caccia preferita, i tappeti. Erano ormai 10 anni che, desiderando comprare sul posto e a buon mercato un vero tappeto di nomadi, ne andavo alla ricerca di città in città, non riuscendo mai a trovare quello che volevo. La maggior parte degli uomini di Andkui indossava ampi kalat a righe o a fiori e molti di loro portavano rigonfi colbacchi di montone nero. Il sindaco, un giovane allegro e ben in carne, ci consigliò di percorrere la strada fino a Shibargan, seguendo un pullman di linea. Se ci fossimo insabbiate, avremmo così potuto contare sull'aiuto di qualcuno. Per il momento eravamo rassegnate, dato lo stato delle strade, a dover essere scortate, ma quegli autisti erano veramente rozzi e scortesi. Si rifacevano del silenzio di tutto il giorno, chiacchierando per l'intera notte con il guardiano della locanda. Uno di loro gemette e sospirò di continuo, e in verità non gli si poteva dar torto. Con quella temperatura di circa 44 gradi, le gambe serrate da giarrettiere, i piedi imprigionati in scarpe da città di cuoio giallo, e il suo corpo sudava sotto un completo di pesante tessuto nero. Quando lasciò cadere giacca e bretelle per aiutarci a uscire dalla sabbia, vedemmo una camicia europea a rigoni viola, verdi e rosa. Arrogante con gli inferiori, servile verso i superiori, egli aveva altresì fattezze volgari, e questo in un paese dove anche il più povero contadino suscita ammirazione. I profondi solchi lasciati dai camion, troppo distanziati per la nostra macchina, ci costringevano a procedere di sghimbescio sulla sabbia. Il disagio di guidare in tali condizioni ci indusse a fare una sosta a Shibargan, tappa che non avevamo programmato. Poiché la nostra scorta si era rifiutata di campeggiare, un ragazzo del luogo ci accompagnò attraverso campi incolti e canali in secca fino a una porta che si apriva lungo un muro. E gli eventi si succedettero come in una fiaba. Nel primo cortile vi era una dimora di modeste proporzioni accanto a un immenso olmo sotto la cui ombra lasciamo il nostro elegante coupé specchiarsi in un profondo bacino squadrato, un house. All'interno della seconda cinta si apriva uno spazio che era al contempo giardino, salone e sala da pranzo. Colà fummo presentati all'elegante proprietario Abdul Nahed Khan. Egli, lasciati i suoi amici, ci augurò il benvenuto invitandoci a sedere sotto un pallido platano. Furono portati tappeti e cuscini e la nostra scorta vi si accomodò a gambe incrociate, senza levarsi le scarpe infangate, fingendo di ignorare la più elementare regola di condotta di un paese in cui si vive per terra. Era senza dubbio troppo pigro per slegarne i lacci. Fu servita la cena. Sapevamo già come prendere con le dita una pallina di riso e carne, ma ben altro affare era destreggiarsi con pezzetti di melanzane immersi in salsa di latte cagliato e olio. Dopo tanta polvere, la pulizia di quell'oasi, dove le foglie cadevano lievi come sussurrando una confidenza, ci fece bene. Calato il sole, ci sistemammo su una piattaforma sopraelevata in mezzo al giardino geometrico. Mentre i fiori impallidivano nelle aiuole, le stelle splendevano vieppiù in quella cupola di scuro velluto che ci sovrastava. In seguito vennero portate altre coperte e poi fummo lasciate sole a godere la purezza della notte asiatica. Il nostro ospite, che era celibe, dava l'impressione di essere profondamente in pace con se stesso. Era amico del ministro afghano di Parigi, Shah Wali Khan, il cui ritratto ornava la sua casa. Wali Khan, fratello sia dell'ex primo ministro afghano Hashim Khan, sia del defunto re Nadir Shah, liberò Kabul dall'usurpatore nel 1929. Decidemmo di partire quando si fosse attenuata la calura meridiana. Abdul Nahed Khan ci invitò a una partita di scacchi che si concluse ben presto a suo favore. Poi ci mostrò un album di cartoline illustrate, il Mont Saint-Michel, la Tour Eiffel, alcuni transatlantici a Porto Said, le cupole del Cremlino e tra queste la fotografia di una graziosa brunetta firmata Tua Lucien. A lungo mi chiesi chi ne fosse stato il destinatario. Il nostro ospite non si era certo spinto più lontano di Tashkent e avevo qualche difficoltà a credere nell'esistenza di una Lucienne in quella città. Chi era la donna del ritratto? Ma era ormai tempo di prendere commiato da quell'affascinante personaggio. Turkestan. Era il crepuscolo. Scivolavamo attraverso una spessa coltre di polvere che immobile stagnava sulla strada. In quella sorta di cortina fumosa vedemmo avanzare illuminati dai fari silenziosi cavalieri vestiti di bianco. Più tardi, con nostra grande eccitazione, ci parve di superare un branco di elefanti che marciavano maestosi su curiose zampe sottili tra cui spuntava una minuscola coda, ma non erano che grandi dromedari, la cui massa grigia si ingigantiva per due enormi sacchi posti verticalmente sulla groppa. Akshe sorse nella notte. Mura squadrate di una pallida cittadella circondata da basse case cubiche. Uomini dormivano all'aperto, distesi sulle corde dei loro ciarpai. Alcuni pullman dai colori sgargianti riposavano le loro stanche carcasse una di fronte all'altra. Ancora una volta ci colse immediata quella sensazione fisica di trovarci in uno sperduto angolo di mondo. Alle 4 del mattino, preso il nostro tè, decidemmo di partire nell'intento di raggiungere Mazar-i-Sharif prima dell'incendio di mezzogiorno. Il percorso si prospettava più agevole. Congedammo quindi la nostra guida, la cui presenza limitava di molto la nostra libertà, ma l'uomo diede in tale scandescenza che presto fummo circondate da un gruppo di robusti afghani. Un vecchio che parlava il russo alla perfezione, vestito di un elegante kalat a righe scure, cercò di appianare la controversia. Comprendendo le nostre ragioni, ci consigliò di scrivere per la guida una lettera attestante che non per responsabilità sua avevamo deciso di fare a meno di lui e di lasciarlo ad Akshesh. Cercavamo di spiegare che con un calore simile, quando già era insopportabile il minimo contatto, diventava un vero supplizio viaggiare in tre stretti sul sedile anteriore, supplizio aggravato ulteriormente dai cattivi odori emanati dalle sue calze che ci costringevano a coprirci il naso con un fazzoletto. Forse il nostro interprete non tradusse parola per parola, in ogni caso capimmo che la simpatia degli astanti era tutta per noi. Non volevamo ritornare sulle nostre decisioni, anche soltanto per dignità, ma intanto il tempo passava e le preziose ore del mattino erano quasi trascorse. La nostra scorta non consentiva a lasciarci partire previo ordine superiore. L'interprete si recò dal sindaco e dopo una lunga attesa lo vedemmo tornare con un vassoio di fichi e un altro gendarme. Eravamo sconfitte, ma eravamo riuscite almeno in parte a salvare la faccia. E ripartimmo al fine con la nuova guida. Era un uomo gigantesco, non sapeva tener ferme le gambe e avendo la mascella sporgente teneva sempre la bocca socchiusa o aperta poiché soffriva malauguratamente di mal d'auto. Un bel cambiamento, dato che il suo predecessore sputava invece di continuo tabacco masticato. Vi era che distruggere il delicato incanto del nostro viaggio attraverso quella contrada lunare e come soffocata da un eccesso di temperatura dove la luce, senza dubbio per la natura del suolo e l'assenza di rilievi, era di mortale candore. La macchina avanzava in direzione del vento e il calore ne risultava quasi intollerabile. Il terreno, assolutamente piatto, si apriva qua e là in larghi canali di irrigazione che distribuivano le acque nate sulle alture dell'Afghanistan centrale, nei gelidi laghi del Band-i-Amir che contavamo di visitare. Il nostro accompagnatore aveva bisogno di una tregua. Ci fermammo quindi in una casupola isolata per chiedere da bere. Vi abitava un uzbeko proprietario di un samovar. Nulla infatti più dissetante del chai sabz o tè verde. Ci dirigemmo verso l'ombra del muro dove un afghano si era già comodamente sistemato sulla terra battuta per dormire. Ma prima che avessimo il tempo di fare un gesto, la nostra scorta lo risvegliò con un calcio cacciandolo via. Simile ingiustificata villania ci riempì di collera. Questo accadeva mentre ci avvicinavamo a Balkh o Baktres, la madre delle città, che un tempo famosa perché misurava 35 chilometri di circonferenza, giace ora morta in quella piana dell'Amu Darja, che si dice vide passare 16 secoli avanti la nostra era, la prima delle migrazioni arie, in cammino verso l'India, attraverso Herat, Kandahar e il colle del Bolan a sud di Quetta. Presto avremmo dunque toccato il suolo di Balkh, dove per la prima volta fu adottata la religione di Zoroastro, dove, secondo Marco Polo, Alessandro Magno sposò la figlia di Dario, il quale, mentre scappava dal Khorasan, fu ucciso da Bessos, satrapo di quella stessa città. Nel secondo secolo avanti Cristo, Chang Qian fu a capo di una missione cinese inviata presso gli Yuechi della Sogdiana, altro nome che designa la Battriana. Viaggio che sembra aver dato inizio al commercio della seta attraverso il cuore dell'Asia. Gli Yuechi erano degli indosciti che avevano invaso quella contrada, considerata fino ad allora l'avamposto dell'ellenismo in Asia centrale. Spiegai a Cristina che grazie ai successori di Alessandro Magno, stabilitisi in Sogdiana, gli archeologi scoprivano vestigia greco-buddiste. Nel V secolo d.C., la regione fu invasa dagli Uni Bianchi. Malgrado le loro devastazioni, il paese rimase ancora buddista finché, 2 secoli dopo, Xuanzang arrivò dalla Cina, diretto verso l'India, dove andava in pellegrinaggio a cercare la conoscenza. Ne ho incontrato le tracce nel corso dei miei 3 viaggi in Asia centrale e ne ho letto gli scritti, traendo grande vantaggio nella comprensione di quanto stavo visitando. Quando Xuan Zang raggiunse Balkh, esisteva ancora colà un centinaio di quei monasteri rupestri che custodivano le reliquie del Buddha. Egli proveniva da Kunduz, capitale dei turchi occidentali che regnavano sul Tokarestan, l'attuale Turkestan afghano. A Balkh, Xuan Zang poté ammirare un magnifico pianoro. Allora doveva esserci più acqua che i nostri giorni, cambiamento forse dovuto al fatto, enunciato dai geologi, che la crosta terrestre continua ad alzarsi in questa parte del mondo. Durante il secolo seguente, il sacerdote del celebre altare del fuoco a Balkh si convertiva all'Islam e i proprietari terrieri seguirono presto il suo esempio. Nel 1221 la città che aveva dato asilo a Muhammad di Khwarazm dovette subire l'ira di Genghis Khan. In un primo momento questi l'aveva soltanto occupata, ma venuto a sapere che il figlio di Muhammad stava riunendo un esercito di 70.000 uomini nel sud dell'Afghanistan, la distrusse per poi marciare su Bamiyan e sgominare infine il ribelle nei pressi del fiume Indo. 50 anni dopo Marco Polo arrivava a Balkh, di cui dice: «Balakh fu una grande città e nobile più che non è oggi, che gli tartari l'hanno guasta e fatto gran danno». A quell'epoca infatti erano ancora visibili, benché in rovina, i bei palazzi di marmo e le grandi piazze di un tempo. Essa fu poi invasa nel XIV secolo da Tamerlano. Seguendo il suo esempio, Abdulaziz, discendente degli Uzbeki che conquistarono Herat nel 1506, combatté Aurangzeb, principe mogul di Delhi, che governava la provincia di Balkh. Ma Aurangzeb era un guerriero ardimentoso. Al tramonto, in piena battaglia, smontò da cavallo per pregare, suscitando così l'ammirazione di entrambi gli eserciti. «Sfidare un uomo di tal fatta e volere la propria rovina», disse Abdulaziz, interrompendo il combattimento. Fu l'ultimo sforzo da parte dei mongoli di mantenere quella lontana provincia. Non potevamo certo sperare di imitare Ernest Renan e la sua Prière sur l'Acropole, meditando sulle rovine di Balkh, raffrontando Asia ed Europa, congetturando sul futuro di Parigi, di Londra, di Berlino. Il nostro gendarme avrebbe certo creato un qualche imbarazzo. Ci stava sempre accanto, sorvegliando ogni nostro movimento, pronto a vietarci l'uso degli apparecchi fotografici. La fobia per la fotografia era l'ultimo tormento del governo afghano. Forse influenzato dall'Iran, dove si spera di eliminare sul nascere ogni immagine rivelatrice di un paese non del tutto moderno. Progettavamo perciò di eludere la sorveglianza dell'attento gendarme, appena giunte in prossimità di quegli incolori mucchi di argilla biancastra che furono un tempo le fortificazioni di Balkh. Cristina si diresse alla loro volta con passo deciso, caricando la macchina fotografica, mentre il nostro afgano la seguiva ripetendo: «Mafi, Mafi, scusate, scusate!». Nel frattempo io fissavo una cupola turchina che risplendeva in cima a un monumento situato a circa 300 metri di distanza, vicino all'entrata della città nuova. Al momento opportuno risalii in macchina e partii a tutta velocità, lasciando sul posto un uomo che avrebbe desiderato dividersi in due. Avevo qualche minuto di vantaggio e ne approfittai per usare i miei 3 apparecchi fotografici. Fotografai il bel monumento, feci riprese a colori e in bianco e nero. Il sole illuminava in pieno la nobile cupola scanalata e l'immenso frontone ogivale, mentre lo splendore dei mattoni smaltati dava una sorprendente nota di vivacità a quel mondo annichilito dall'accecante riverbero di mezzogiorno. Le tinte, tuttavia, erano troppo tenui per piacermi. Di quella moschea mi attraevano la fiera maestà della costruzione e soprattutto le spesse colonne a spirale che inquadravano il grande portico. Quaggia è il nome dato a una setta di santi uomini che in tempi remoti avevano acquisito un potere assoluto sui Khan del Turkestan e le cui tombe si trovano in Asia centrale. Quaggia deriva forse da Kojajan, colui che insegna. Gli adepti appartenevano all'ordine derviscio dei Naqbandiya. Essi svilupparono la potenza del volere grazie a una perfetta concentrazione. Nei loro libri è scritto: «È impossibile entrare in conflitto con un Arif o una persona che sa. Ella possiede la potenza del volere». Dal famoso Tariq i Rashidi veniamo a sapere che erano facitori di miracoli, così come guaritori di malattie. In virtù di tali facoltà, essi avevano grande influenza sulla mente delle masse. I Naqbandiya, i pittori, erano così chiamati perché il loro fondatore, Naqband, disegnava incomparabili immagini della divina scienza e sapeva dipingere in maniera percettibile le figure dell'eterna invenzione. Cristina mi raggiunse, seguita dalla guida come dalla sua ombra, e insieme ci affrettammo verso Mazar-i-Sharif. In macchina, per non sentire le recriminazioni del gendarme, mi misi a leggere il primo opuscolo che mi capitò tra le mani. Erano le istruzioni di Mr. Ford per i proprietari delle sue automobili. Smisi ben presto, l'elenco delle cose da non fare diventava inquietante. Le profonde buche della strada costituivano un pericolo per le nostre balestre, ma non ci facevamo caso, tanto eravamo assorbite dal discutere se la nostra epoca fosse in grado o meno di produrre mistici paragonabili ai Naqbandiya. Il più celebre fra loro, Jalaluddin Rumi, nacque a Balkh e fu il fondatore dell'ordine derviscio dei Maulavi. Un suo confratello, Shams al-Din di Tabriz, fu conosciuto sotto il nome di spirito animatore dell'ordine, sultano dei mendicanti, mistero di Dio sulla terra, perfetto in parole e azioni. Rumi visse all'inizio di quel XIII secolo, nel corso del quale Gengis Khan pose fine a un'epoca, annientando le grandi capitali di quel tempo, Balkh, Merv, Nishapur, Rai. Se una guerra mondiale, l'equivalente moderno di un'invasione mongola, distruggesse il nostro mondo attuale, ricomparirebbero mistici ansiosi di occuparsi di fatti più importanti e meno affliggenti dell'umana stupidità? Viaggiavamo con tutta una serie di libri che, fissati sul retro degli schienali, subivano infiniti strapazzi, ma era una tal gioia avere sotto mano l'opera desiderata al momento voluto. Tra questi si trovavano Marco Polo, Paul Pelliot, Ewans Wentz, Vivekananda, Maritain, Jung, Una vita di Alessandro Magno, René Grousset, Lo Zend Avesta. Scelsi The Dervishes e lessi ad alta voce il seguente passaggio su Jalaluddin Rumi. Un giorno, mentre era su un tetto in compagnia di alcuni bambini, gli fu chiesto se era possibile saltare sulla casa vicina ed egli così rispose: «Infelice l'essere umano che cercherebbe di imitare ciò che fanno cani e gatti. Se vi sentite capaci di una simile impresa, allora saltiamo verso il cielo». Così dicendo, prese lo slancio e scomparve dalla vista di tutti. Gli astanti si misero subito a gridare, ma un istante dopo Rumi riapparve, il colorito alterato, il corpo mutato. Egli raccontò che una legione di creature vestite di verde si era impadronita di lui e l'aveva rapito in un vortice. «Quegli esseri mi mostrarono cose strane, di carattere celeste, ma le vostre grida ci raggiunsero ed essi mi riportarono sulla terra». In seguito, quando si lasciava assorbire dal suo fervente amore per Allah, si sollevava dal suo seggio e roteava, allontanandosi più di una volta dal mondo materiale. Soltanto con la musica si poteva impedire che svanisse dalla cerchia dei suoi devoti. Anni dopo mi capitò di leggere alcuni versi di Jalaluddin Rumi che sembravano scritti per Cristina. «La volontà che sa, la memoria, il pensiero, un inferno e la vita stessa un inganno, sono gli uomini più morigerati che si assumono l'ignominia delle droghe e dell'alcol per liberarsi dalla coscienza del proprio sé».